la campagna, con quei sani sapori di una volta. Mia nonna, quella pia donna, da quando ha smesso di fare biscottini, gira in calze a rete minigonna per rimorchiare sempre nuovi nipotini. Mia nonna, che beata donna, non si dedica più all'arte dei centrini, si accompagna a certi fighi della Madonna per provocare le comari dei vicini. Mia nonna, quella buona donna, da quando ha smesso la dieta dei grissini, si sfonda a mari tozzi con la panna ed è più in forma di Naomi col bikini. Mia nonna, che prima donna, non frequenta più i cori altoatesini, ha scoperto l'organetto ad una canna e fa vocalizzi al mare coi bagnini. Da quando nonna Uga è diventata cuga, cerca la carne fresca e scarta la lattuga, perché mia nonna Uga sui social lei va a ruba tutte le studentesse, la guardano da intrusa. Quando c'è nonna Uga, i maschi ti fanno le fusa, dietro si fa la fila, non si perdono una ruga, perché mia nonna Uga da impenitente cuga affronta ogni rivale, le mette tutte in fuga. Ah, ah, sì, sì, le mette tutte in fuga. Ah, ah, sì, sì, le mette tutte in fuga. Attenzione, nel corso della canzone potrebbero essere inseriti prodotti a scopo commerciale. Antonio Rick. Mia nonna, quella santa donna, non va alla tombola dei frati cappuccini, ma fa bingo e porta a casa la sua strenna, perché c'è sempre chi le offre il suo martini. Mia nonna, morigerata donna, non va più a dormire con i bigodini, mette in testa il suo cappello con la penna e fa da apripista alla parata degli alpini. Quando nonna Uga è diventata cuga, cerca la carne fresca e scarta la lattuga, perché mia nonna Uga sui social lei va a ruba tutte le studentesse, la guardano da intrusa. Quando c'è nonna Uga, i maschi ti fanno le fusa, dietro si fa la fila, non si perdono una ruga, perché mia nonna Uga da impenitente cuga affronta ogni rivale, le mette tutte in fuga. Ah, ah, sì, sì, le mette tutte in fuga. Ah, ah, sì, sì, le mette tutte in fuga. La crostata. Viva la campagna. Le tagliatelle di nonna Cugar.